queste spiagge isolate a sera raccoglierò mille conchiglie e la schiuma fresca io verserò nella tua coppa di pace eterna e soffierò sulla tua vela più bianca. Poi raschierò il cielo grigio dei muri e un sole disegnerò sopra i tuoi tetti più scuri ancora. Mi lancerò dalle montagne più alte sui nevai planerò e tu sarai sulle spalle amore e ti darò forza e coraggio. Scusa amor mio se non puoi correre a piedi nudi, se non c'è un Dio, se non ti posso toccare il viso. Perdonami se non ti porto lontano con me. Scusa amor mio se non conosco il sorriso tuo e se vaghi così nel mio ricordo infinito e ancora. Perdonami se non ti prendo per mano con me. Io cucirò tutte le stelle in una coperta e coprirò questo silenzio di seta e il suono ti fonderò della più dolce canzone rima declamerò la più struggente poesia d'amore raccoglierò tutte le foglie. Scusa amor mio se questa vita è sbagliata e se la vita è così, se questa sera è stellata ancora. Perdonami se non saprò amor mio, se io ti ho chiuso la porta e fa che non finisca mai questo mio senso di colpa che mi morde, lo sai, come una stretta di morsa che in me. E se la vita è ingiusta, se non sei mai nata, questo cammino buio ti sei fermata, il tempo vola, ma non mi consola nessuna preghiera, nessuna se non ti posso toccare il viso. Per te